Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti, buona domenica da Gegè Telesforo. Siete come sempre in contatto con il Groove Master Studio per il sound check, la prova del suono qui su Radio 24, e questa sera sono molto felice di ospitare nel Groove Master Studio un mio amico, un artista al quale sono particolarmente affezionato e del quale sono diventato con il tempo anche un fan accanito. Eccellente cantante, nato e cresciuto nel Midwest, ma ormai da oltre 10 anni vive a New York City, dove col tempo è diventato uno dei vocalist più richiesti dai musicisti della nuova generazione. Ladies and gentlemen, put your hands together, my brother Sajal Vasandhani at the soundcheck. Come stai, mio fratello? Come Fantastic. Stai? Thank you for having me. I'm very happy to see you. Finally, you are at the Groove Master Studio. Perché una volta ci siamo collegati via Skype. You remember? We had a Skype session. A Skype session. So, how are you doing? Very good. Eh? Very good. I know that your activity is going very well. La tua attività sta andando molto bene, così come la tua carriera. Ma prima di parlare dei tuoi progetti musicali, vorrei raccontare un po' la tua storia. I think that it's nice if you can say your story to the Italian audience, perché one day your family thought that maybe you could be an economist, perché forse avrebbe dovuto fare il commercialista probabilmente, o lavorare con l'economia lì negli Stati Uniti. How do I explain? Your parents love you. They love my singing, my art, my writing, always have loved it. But like all parents, they don't want their kid to starve. Ecco, allora sì, i suoi genitori amano l'arte, amano quello che fa, amano come canta, però naturalmente sono all'inizio preoccupati di quello che devono fare. So? Sì. So I had a choice to, of course I was going to do music, of course, but I had a choice to additionally do some economics, some studies, and my family encouraged, my mother encouraged me to do that. Sì. Quindi avrebbe dovuto fare senz'altro musica, è quello che avrebbe fatto, quello che aveva già scelto, ma poi la mamma lo ha incoraggiato anche a fare altro e a laurearsi in economia. So one day... So you never know, but the truth is, in my college I was so preoccupied with music, so in love with the history and the theory and of course the practicing, classical and jazz, that I would sleep in my economics. That was a good time for me to sleep in the economics classes. You understand? Sì, però ha sempre voluto fare musica e pur studiando economia non nasconde il fatto che in classe durante le lezioni praticamente approfittava per dormire. But you finished the university. I finished. I don't know how I finished. Non sa come, ma ha finito gli studi di economia. And I think that you moved to New York working in a bank. Si è poi spostato a New York, dove ha iniziato a lavorare in una banca. You could say it was like a ticket to get to New York. It was my dream to sing in New York, but you could say this working in the bank was like a ticket to set up shop. Sì, certamente il suo sogno era spostarsi a New York per fare musica, ma il suo approccio con la banca e il lavoro in banca era un po' il biglietto d'ingresso per New York per iniziare a fare musica. But one day you understand that music, the power of music was so strong for you. For sure. Yeah. For sure. It was always a plan to just work for the year, save some money, and return to my passion. Sì, quindi per un anno è riuscito a mettere da parte qualcosa, ma poi è tornato alla sua passione. E lì ha iniziato a fare tantissimi incontri che lo hanno portato in contatto con le realtà più importanti della musica di New York, e quindi grandi musicisti, dal formidabile contrabbassista John Clayton. John Clayton è stato molto importante per lui perché ha prodotto. He was your producer, eh? Yeah, I think of him as a producer and a friend. And for a time, you know, he's given me some of the best advice I've ever received about music, about spirit, about the music business, which, as you know, is Eh sì, John Clayton, eccellente contrabbassista che ha fatto la storia del jazz, è stato per lui molto importante non solo perché gli ha prodotto i dischi, ma perché gli ha dato degli ottimi consigli nella musica e per la sua vita. Io direi di ascoltare musica, di andare subito a Slow Motion Miracles, l'ultima produzione di Sashal Vasandhani per la Sony, e il brano è uno dei miei preferiti, si intitola High Stacks, qui al Soundcheck. Sashal, had you on my mind. Si intitola Slow Motion Miracles, ma ne abbiamo già parlato diverse volte qui al Soundcheck, l'ultima produzione discografica a nome di Sashal, ovvero Sashal Vasandhani, nostro ospite qui al Groove Master Studio, che continua lì a New York a frequentare gli studi di registrazione per come dire, supportare il lavoro anche di colleghi. E c'è una giovanissima vocalist, compositrice, chitarrista cilena che si chiama Camila Mesa, un'artista che io considero eccezionale. E Sashal ha avuto la possibilità di poter lavorare nel nuovo lavoro intitolato Traces, I think this is the name of the album, o Camila Mesa, e il brano si intitola Wait. Tell me something about Camila. I like her a lot. I met her because when I was trying out the songs that would become Slow Motion Miracles, I wanted someone to play guitar, and somebody recommended Camila Mesa. I didn't know her. But in about 2012, 2013, she was in my band. We were trying out this music. So we became friends through that. Ecco, è diventato amico a Camila Mesa perché quando stava lavorando sulla produzione di Slow Motion Miracles qualcuno gli aveva consigliato di chiamare come chitarrista Camila Mesa, perché è un eccellente chitarrista e a New York si sta facendo apprezzare, e poi ha fatto parte della sua band e finalmente Camila Mesa è approdata alla Sunnyside Records, I think is the label, questa è l'etichetta che ha prodotto il disco di Camila Mesa, e Matt Pearson is the producer, l'eccellente Matt Pearson ha prodotto il tutto. Traces, il titolo di Camila Mesa, di questo album con la partecipazione di Sashal. Il brano si intitola Away. Soundcheck. Il suono della musica. Di nuovo collegati con il Groove Master Studio per il soundcheck di questa domenica, nostro ospite Sashal Vasandhani, che qui incontra il maestro John Hendricks in un classico del jazz come One Mint Julep. E sì, qui abbiamo una passione in comune con Sashal, quella per il maestro John Hendricks, che anch'io ho frequentato e dal quale ho appreso tantissimo. La lezione più importante che ho avuto per quel che riguarda il jazz me la diede proprio John Hendricks. L'ho raccontato a Sashal. About my lesson, my music lesson from John Hendricks. Sì, chiesi a John Hendricks a New York, ma ormai tantissimi anni fa, di darmi delle lezioni di canto, di musica e di jazz, e John Hendricks mi disse assolutamente no. Io ci rimasi anche un po' male, però lui poi mi disse: guarda, stiamo lavorando insieme, stiamo facendo i concerti, stiamo registrando, guarda quello che faccio e impara. Check what they do and do what you feel. I think it's one of the best lessons. Absolutely. It makes sense because he has so much to teach us. Sì, perché ha molto da insegnarci. All of us, as musicians, as singers especially. But I think, don't you think that's a life lesson for people in life? You know? Just see what I do it, learn it if you like it. Sì. Leave it if you don't like it. Sì, che poi è una delle lezioni più importanti per il jazz. Il jazz è stato tramandato così: le nuove generazioni seguono i veterani attingono grande energia dai più giovani. È così che si tramanda il jazz, e questa è la lezione. Poi adesso viene insegnato nelle scuole, nei conservatori, ma di base ci deve essere sempre la grandissima passione. Tell me your first feeling when you met John Hendricks the first time. Qual è stata la tua prima emozione quando hai incontrato John Hendricks la prima volta? I was scared. I was, you know, I'll tell you, I was booked to be singing with him, and I got to the festival the night before, and they arranged it so I could go to his hotel room. Oh. So I walked in, opened the door, somebody was waiting, his wife or his daughter was there, and he was sitting, I think, on the bed, so he, come over here. Yeah, yeah. And this is my first record, Eyes Wide Open, had come out. And he said, I listened to your whole record. And I was like, oh, shoot. And he says, I really like it. And I said, okay, cool. But then he says, you know one thing? On one of your songs, mm-hmm. you curse. I said, really? Mm. He said, yeah. Because on one of my songs, Please Mr. Ogilvy, I say, I might just piss my life away. Yeah. It's not a curse, but it's a little bit of a rude word. Yeah. And he had really listened to the whole record because he discovered that word. And it made me think, man, you really listen to this record. Sì, l'ho incontrato la sera prima di un festival. E avevano questo concerto insieme, non l'aveva mai incontrato. L'ha incontrato nell'hotel, è entrato nella sua stanza e John Hendrix stava ascoltando la sua musica e gli ha fatto anche i complimenti perché in una delle composizioni aveva trovato che i testi erano comunque molto interessanti per John Hendrix, che poi è uno dei grandi parolieri della storia del jazz e uno dei grandi improvvisatori. Sì, un grande improvvisatore, un grande musicista, e questi sono incontri meravigliosi come quello che ultimamente abbiamo fatto con Sajal Vasandhani insieme per lavorare su questo nuovo progetto, this new project called Fun Slow Ride. Sì, perché Fun Slow Ride è finalmente pubblicato, lo troverete su iTunes con tante collaborazioni, la giovanissima Joanna Teeters, Alan Hampton, Ben Sidran, Amin Salim, un sacco di formidabili musicisti italiani, da Max Ionata ad Alfonso De Ida, strepitoso Domenico Sanna, e quindi anche Sajal Vasandhani. Do you want to tell this story about Fun Slow Ride? What do you think about the project? I think it's beautiful. First of all, the spirit is beautiful. Your choice of a topic is lovely. And now I've heard several songs from the record, and it really makes a beautiful statement. And I like the mix, and I hope your listeners will like it too, of the feeling, the flavor of jazz within something that you can tap your toes to, and it's a good production. It feels modern in a good way. Thank you. Sono contento che gli piaccia questa produzione perché abbiamo lavorato per oltre due anni e quindi contento di come suona, di come è stata realizzata e soprattutto anche il concept generale del disco. Ha ascoltato tutti i brani, è rimasto molto colpito, sono molto felice. Sajal Vasandhani con Fun Slow Ride, il brano si intitola Say No. Sentite come canta questo ragazzo. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eh sì, questo è proprio il brano che apre Slow Motion Miracles, No More Tears, brano che anche dal vivo fa la sua sporca figura. Sajal Vasandhani è stato in Italia per una serie di concerti qualche settimana fa e ho visto alcune performance, e quando canta No More Tears vedo che le ragazze impazziscono, e questa è una cosa che fa sempre piacere. Sajal Vasandhani, ospite del Groove Master Studio. Purtroppo abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, quindi io vorrei chiedergli che cosa sta succedendo adesso a New York. So what's the scene in New York about the music right now? Yeah, right now it's so exciting because you still have so much exciting jazz coming through the pipeline. People like David Wong or Jeb Patton or Adam Birnbaum, they're holding up tradition. And then so much stuff is coming from outside in. And of course it's coming from the internet. It makes a lot of the scenes similar. But in New York, I can go see that show. Then I can turn a corner and see something with a little more funk, a little bit more R&B. I can see something with a Brazil influence. I can see a lot of indie rock. And I can even see the jazz influence on the indie rock, you know? And then that comes back to... I'll give you an example. There's a band. Let me translate. Yeah. Ha detto che la scena in questo momento è molto interessante perché ci sono molte cose, molte nuove band che si stanno formando attraverso internet, ma a New York basta girare l'angolo per trovare tutto quello che hai a disposizione e ti mette a disposizione, dal funk, l'indie rock con il jazz, varie combinazioni di stile, anche la musica brasiliana con delle nuove spezie vicine al jazz. Go on. I give you an example, and it's one of the people you have on your record, which is Alan Hampton. Sì. Okay. Now, because he came up in jazz in the Houston scene... Yeah, because he's a great acoustic bass player. He's a great acoustic bass player, and he came up from jazz, and he still works in jazz quite a bit. One of the things I thought was really interesting is, some years ago now, but still very much could happen today. Yeah, a few days ago I saw him play the bass with Robert Glasper and Eric Harland. It was like a Houston. Sì, pochi giorni fa ho visto Alan Hampton, sta facendo questo esempio, suonare il contrabbasso con Robert Glasper, quindi proprio jazz. But when he plays his music. But one of the things I found interesting is Robert, a couple years ago at a jazz club, had Alan open for him singing his songs, which are like folk songs, they're pop songs, they're indie songs. Sì, yeah. Eh sì, però tempo fa ho visto Robert Glasper un anno fa in un club, un paio di anni fa, in un club con Alan Hampton che cantava le sue canzoni con un sapore molto indie e folk. I saw that so interesting that at the jazz club when Robert had his jazz trio or some jazz project, he would have Alan do his folk project. So that seems to me that even on the same night in the same club for the same audience, we can bridge some worlds, we can do a number of different things. Then it's as much folk and R&B as it is, you know, true, you could say, pure jazz. E quindi anche il pubblico sta imparando ad apprezzare questa mentalità molto aperta. Nello stesso club, la stessa sera, puoi ascoltare dell'ottimo jazz, ma puoi ascoltare anche cose diverse, come Alan Hampton, che canta le sue composizioni più vicine al mondo del folk. Grazie a Sashal Vasandhani per la partecipazione. I hope to see you soon in Italy, maybe with your band performing. It will be a real pleasure. Spero di vederlo con la sua band, magari la prossima estate, in concerto e magari una nuova collaborazione. Thank you very much, Sashal. Thank you for having me. Vi lascio con una composizione splendida di Gerald Clayton. Naturalmente la voce solista è quella di Sashal Vasandhani, un brano splendido, si intitola Dusk Baby. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 19:15, sempre e soltanto qui al Soundcheck di Radio 24. Buona settimana a tutti. You arrived, a siren for a song.